la miscela è scolpita di un rude cowboy che fuma. Un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Confesso avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente, la gioia di fare all'amore con te. E invece adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi, sereno, forte e calmo come non sono stato mai, per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro anche senza te. Speravo in niente di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente, la gioia di fare l'amore con te. Oh, splendida giornata,

velo e all'imbrunire seguire la luce di alcune lampare e raggiunta la spiaggia mi piace dormire, ma come fare non so. Il mio cuore invece sta male, dal dolore ne morirà. Arrotino, che ramingo ogni giorno tu vai lungo le strade, vagabondo tu sempre sarai delle contrade. Il tuo semplice cuore lo sa, si perderà. La città. Perché no? che mai. Ormai non pensi a me, na na na na na na na na, ed ecco me. Son l'unico che sta a New York. Vorrei impiegare meglio la mia libertà, ma non riesco. Com'è strano coltivare il mare, quanti fiori ti ha dato già, quanti altri te ne potrà dare. Da qui a Saigon la strada è buona, terra libera, terra scura, quest'autunno cambierai colore. Con il vento sarà la pioggia che cadrà senza bagnarti il cuore. Da qui a Saigon la strada è buona. C'è mio figlio che ha occhi grandi quando guarda verso sud. C'è il tramonto che lo accarezza quando guarda verso sud. Da qui a Saigon la strada è buona. Cerca il cielo attraverso i rami, cerca il cielo e lo troverai. Sole nasce e sole muore ed il cielo non cambia mai. Da qui a Saigon non cambia mai. Il cielo lo troverai. Sole nasce e sole muore ed il cielo non cambia mai. Cerca il cielo attraverso i rami, cerca il cielo e lo troverai. Sole nasce e sole muore ed il cielo non cambia mai. Da qui a Saigon non cambia mai. Mai. guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé del fumo grigio e me e questo verde mondo. Farmi chiedere se io vivo. Mezz'ora fa mostravi a me la tua bandiera d'amore, che amore poi non è. Farmi chiedere se io vivo. Puoi andare dove vuoi. fare ciò che vuoi, perché tu non lo fai, perché non te ne vai, perché hey! Prendi fra le mani la testa e non girerà. Prendi fra le mani la testa e non girerà. Dura poche ore la festa, dopo finirà. Due scarpe tu ce l'hai? Due scarpe tu ce l'hai? Puoi andare dove vuoi? Puoi fare ciò che vuoi? età avevo un'altra religiosità. Pensavo che la gente non ci capisse niente in tutto quello che facevo, in tutto quello che pensavo. Poi ho incontrato te. Ricordo che il tuo viso mi ricordava qualcun altro. Credevo di averti già visto, magari su fotoromanzo. E quando te l'ho detto, tu ridesti molto. Poi tutto venne da sé. Comunicare è facile, facile come pensare. Quando ci si vuole capire e ci si lascia andare, ad un certo punto si comincia a vibrare, finché si rimane intontiti ad ascoltare. L'amore arrivato già a delle conclusioni, a delle spiegazioni per tutto quello che facevo, per tutto quello che pensavo. Poi ho incontrato te. E tu cambiavi sempre, dicevi che maturare significa cambiare, fermarsi in fondo è come morire, e lo volevi dire, e lo volevi urlare, ed io urlavo con te. Dimenticare è facile, basta non ricordare, si può perfino ridere, anche se tu lo facevi male. Non ho capito cosa è successo, però così non si poteva più andare. Questo gesto, questa cortesia. questo passo, questo dire, questa tua mania, con la donna che si muove ma senza parole, l'ombra scende in basso dove cambierai colore. Fosse vero, fosse vero, fosse vero. Di qualità, un'invenzione da penetrare, le cose a posto fra me e te, son posizioni da evitare, o emetti un gioco di qualità, tra le forcine intimità. Qualche sentiero da stuzzicare, coi proverò, così ti parlo di qualità, l'aria che serve a tenermi su, mentre ti muove la voglia di mandarmi giù. Eccoli, è la pazza in riva al fiume, guarda il cielo, dondolandosi poi tende le mani, come a prendere rondini, ombre in fuga su lei. E muove l'acqua, poi guarda affascinata i cerchi e i piedi affonda fra le foglie e le canne marcite, inseguendo un ricordo più in là su una sponda lontana. Thank you.